tratta di 8 viaggi accertati. Lei sa che soprattutto sulla Milano-Venezia ci sono tanti, c'è il sistema del tutor, per cui ad esempio nel giro di 5 minuti risultano 3 multe. Quindi rispetto a questi 8 viaggi ci sono 23 sanzioni. 23 multe in 8 viaggi. Queste 23 sanzioni per questioni che stiamo cercando di ricostruire, ma che purtroppo insomma sono abbastanza evidenti, sono aumentate, nel senso che a queste 23 si sono aggiunte altre 16 sanzioni che ricoprono l'infrazione accessoria per omessa indicazione del conducente, e le 23 sanzioni si sono raddoppiate diventando 46, poiché non è stata pagata nei termini, non sono state pagate nei termini previsti. No, i 21 erano 8.000 euro tutto compreso. Okay. Come l'ho detto, con tutte le altre sanzioni si è arrivata a 21.000 euro. Ecco, ma è chiaro, però le dico, chi le paga? Cioè, si pagano, questo è evidente. Se arrivano i verbali si pagano. Non è il caso, i verbali si pagano. Ma chi le pagherà queste adesso? Le pagherà il comune? Le multe andrebbero da regolamento pagate dagli autisti. È evidente che laddove sono stato trasportato c'ero io, mi sento di assumermi la responsabilità di quelle multe perché ero trasportato io, e quindi se c'è stata, non lascerò l'autista, che come sa, voglio dire... anche perché uno poteva dire scusa, vai un po' più piano. Certo che è stucchevole il fatto che, guarda caso, ciò che non è mai accaduto e non dovrebbe mai accadere, soprattutto in un ente pubblico, in questo caso è accaduto. Si sono dimenticati o occultati dei verbali, che è stato grave, insomma, avvenisse.